in primo piano. Le aperture in realtà sono su diversi temi, per esempio il Sole 24 Ore, le tasse a due livelli sugli affitti, sullo studio, le modifiche al federalismo fiscale allo studio del ministro Calderoli. Mentre c'è chi sceglie un'interessantissima lista di nomi, che abbiamo sentito anche nel GR, che sicuramente vorrete sapere, quella della lista Falciani, l'elenco delle persone italiane che detenevano soldi all'estero, conti all'estero, i nuovi nomi e l'apertura del Corriere della Sera, mentre il Messaggero lista Falciani, ecco i nomi. Questa è l'apertura di prima pagina. La politica, segnalo solo in apertura di Repubblica, è sicuramente il tema politico del giorno, un'intervista al presidente della Camera Fini. Fini, un patto per l'emergenza, Repubblica, intervista. È la prima volta che parla dopo il 14 dicembre il presidente della Camera. Oh, però io voglio andare subito alle segnalazioni che mi hanno incuriosito. La prima, che trovate sui vari giornali, molto sviluppata su Repubblica, un'intera pagina, che ti ha combinato il sindaco di Bari del Partito Democratico Michele Emiliano. Bari, né turbini alla gogna, il sindaco mette su Facebook le fotografie dei fannulloni. E tra l'altro ha fatto un appello, Emiliano, ai cittadini: prendete la macchina fotografica, segnalatemi i dipendenti pubblici che non lavorano. Tanto per rendere l'esempio, ha pubblicato sul social network Facebook una foto di tre netturbini fermi in mezzo alla strada con la seguente didascalia: se qualcuno dei dipendenti dell'AMIU, cioè l'agenzia che pulisce le strade, si riconosce nella foto, potrebbe aiutarci a spiegare perché chiacchierava coi colleghi anziché lavorare come ci aspetteremmo tutti. È ovviamente un'iniziativa che fa molto discutere. Repubblica tra l'altro sente altri sindaci, dalla Moratti a Chiamparino, a Cammarata, a Palermo, che dicono: bah, insomma, sembra più una gogna pubblica, non spetta la gente combattere gli abusi si combattono in altro modo. Però anche sulla Stampa, la gogna del sindaco, finiscono su Facebook gli spazzini fannulloni. Non male come tema di cui parlare. Interessante questa iniziativa del sindaco di Bari per combattere i fannulloni, ha messo le foto degli spazzini. E poi tra l'altro Emiliano ha anche commentato così: dai vigili urbani qualcuno, in troppi, quando conquistano il posto di lavoro pubblico credono di aver fatto 13 al Totocalcio. Ora basta. E l'invito a mandare le foto di chi non lavora, che poi una foto, come si sa, non è che racconta molto, ma immortala un istante, ma chissà poi cosa facevano 2 secondi prima e cosa hanno fatto 2 secondi dopo quella foto, quei tre netturbini immortalati. Sta di fatto che voglio segnalare sempre sulla Stampa una vicenda analoga che arriva da Aosta, analoga perché c'entra la tecnologia. A 12 anni filmano la professoressa troppo distratta e la scuola la trasferisce. Una vicenda che arriva da Aosta, dove nasce per la verità dal 2007, dove alcuni studenti di 12 anni hanno immortalato una professoressa che era bersagliata dalle domande morbose dei ragazzi sulle sue abitudini sessuali, e lei appariva imbarazzata, incapace di reagire. Questo è l'antefatto. Poi la stessa professoressa è stata reimmortalata recentemente con un nuovo filmato non finito su internet solo perché è intercettato dai genitori. In questo filmato si vede una classe completamente distratta mentre lei ha la lavagna, ognuno che fa le proprie cose, studenti allo sbando, e insomma, visto questo filmato, la scuola l'ha rimossa. Anche qui, insomma, un filmato fatto da ragazzini di 12 anni che sono costati il posto a questa professoressa, la scuola la trasferisce. Una vicenda che viene da Aosta. Attenzione ai telefonini, eh? E allora, volete sapere la lista di nomi dettagliata che c'è sui giornali di persone italiane che, secondo l'accusa di Roma e secondo questa lista Falciani, tenevano i soldi in Svizzera? E li volete sapere i nomi, eh? Stilisti, attrici, imprenditori, ecco chi aveva i soldi in Svizzera. Così trovate a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, che ne dà ampio risalto, ma è anche l'apertura, per esempio, del Messaggero, c'è una pagina anche su Repubblica. dell'elenco di persone che sono nella cosiddetta lista Falciani. Questo Hervé Falciani è un ex dipendente della HSBC che ha trafugato un dischetto con tutto un elenco di persone di tutto il mondo che detenevano soldi in Svizzera. Ora si indaga per quel che riguarda nei vari paesi, si indaga anche a Roma e per la prima volta ci sono i nomi. E allora io li leggo dal Corriere. Fiorenza Sarzanini, stilisti, imprenditori, attrici, gioiellieri. Per l'Italia ci sono 6.963 posizioni finanziarie, per la verità molte sono quelle di casalinghe, di persone non famose, però ecco qua, per carità, essere in questa lista non vuol dire nulla, però vuol dire avere soldi in Svizzera, si presume. Stefania Sandrelli, inizio da qui, attrice soubrette, vado nell'ordine del Corriere della Sera. Nella lista c'è anche sua figlia Amanda. E poi nella lista Elisabetta Gregoraci, la moglie di Briatore. C'è anche il regista Sergio Leone, che però è scomparso nell'89, dunque saranno gli eredi, scrive Fiorenza Sarzanini, a dover fornire chiarimenti ai magistrati. Poi stilisti e gioiellieri, il più noto certamente Valentino Garavani. Poi Renato Balestra, entrambi avrebbero depositato capitali presso la banca inglese, l'HSBC. Poi c'è Pino Lancetti, però è morto nel 2007. Le società che fanno capo a Gianni Bulgari, maestro di gioielleria. E poi ancora, voglio andare avanti, nella lista compare anche Camilla Crociani, moglie di Carlo di Borbone, figlia di Camillo. Riguarda il conto di Telespazio, la società di Finmeccanica che si occupa di sistemi satellitari. E ancora c'è il presidente della Confcommercio di Roma, Cesare Pambianchi, insieme a Carlo Mazzieri, commercialista che risulta socio nella sua attività professionale privata. Ovviamente il Corriere cerca anche di intervistare alcuni di questi, per esempio la principessa Camilla Crociani, moglie del principe Carlo di Borbone, sconcertata, di poche parole ma gentile. Mi faccia una domanda precisa, chiede alla giornalista. Beh, lei risulta di essere titolare di un deposito svizzero presso la HSBC di Ginevra? Ma ho conti in tanti posti, può darsi, vivo all'estero. E poi arrivederci. Oppure Gianni Bulgari replica con la massima tranquillità: sono stato informato di questa circostanza, ma il problema non sussiste, visto che nel 2007 il conto era già stato chiuso. Lo stilista Balestra invece non ne sa nulla, si fa raccontare per bene la vicenda. Questa è Giovanna Cavalli, la giornalista del Corriere, che li ha contattati. E poi spiega: non è che io mi occupi direttamente delle questioni finanziarie, ma col mio lavoro può succedere che qualche pagamento me lo appoggino su un conto estero. Decisamente più arrabbiato invece, poco propenso alla conversazione, è il presidente di Confcommercio Roma, Cesare Pambianchi, titolare di diverse palestre, centri benessere. Non perdona di essere tirato in ballo per una storia di evasione in cui si sente estraneo. Smentisce decisamente, minaccia vie legali immediate per chiunque si azzardi a mettere il suo nome nero su bianco. E insomma, questa lista anche su Repubblica, stilisti, attrici, gioiellieri, ecco i VIP della lista Falciani. I nomi sono gli stessi: Stefania Sandrelli, Amanda Sandrelli, lo stilista Valentino, Lancetti, Renato Balestra, i Bulgari, Elisabetta Gregoraci, Camilla Crociani, insomma, ne abbiamo detti. Poi ce ne sono qualcun altro che ovviamente sfugge, ci sono anche i nomi appunto che all'apparenza non dicono nulla, nomi di persone che sembrano persone comuni. Anche sul Messaggero a pagina 5 la lista Falciani arriva in procura, ecco i 35 nomi dei titolari dei conti, ecco sono 35. In tutto. Questo per quel che riguarda la lista Falciani, sulla quale molti giornali aprono. Mentre per quel che riguarda la politica, come detto, la politica sicuramente la notizia del giorno è che Repubblica intervista il presidente della Camera Fini, leader di Futuro e Libertà. È la prima volta che parla e lo fa con due pagine di intervista, intervistato da Claudio Tito. È la prima volta che parla dal 14, dice tante cose, sostanzialmente, e questo si vede nel titolo, paese fermo, governo paralizzato, ma ora non si può andare a votare, serve un patto di salvezza nazionale, così dice Fini. Parte dal 14 dicembre, quella che dice: ho preso atto il giorno della fiducia a Berlusconi di una sconfitta politica e del tradimento, una categoria che non dovrebbe appartenere alla politica, comunque alcuni hanno fatto delle scelte che vanno rispettate, anche se non ne colgo le ragioni politiche. Poi fa un lungo ragionamento Fini parlando di una situazione di ripresa economica lontana, una metafora usata da Tremonti Felice, vale a dire un videogame in cui se uccidi il mostro ne compare subito un altro, non riusciamo a innestare la marcia, insomma insomma, visto questa situazione, propone questo patto di salvezza nazionale. Dice Fini: mi rivolgo a tutti, faccio un'intervista a un grande giornale per rivolgermi a tutti. Voglio uscire da quello che Berlusconi chiama il teatrino della politica e non userò nei confronti del Premier una sola espressione polemica. È un dovere, insomma, proporre soluzioni per evitare l'asfissia, e dice riguardo all'elezione anticipata: è una prospettiva rischiosissima per l'Italia. In campagna elettorale non si fanno le riforme. Se poi la maggioranza riterrà di non poter governare, spiegherà il perché agli italiani e se ne assumerà la responsabilità, ma sia chiaro che Future Libertà e il polo della nazione non temono le urne. Poi parla di asse con Casini. Saldo, certo, l'ho visto anche stamattina. Solo una battuta sulle accuse su alcuni giornali della escort che avrebbe avuto una presunta relazione con Fini, insomma, alcuni incontri sessuali. Dice Fini: è solo fango, non so da chi è stato diffuso, non ho mai conosciuto quella signora e chiunque affermi il contrario ne risponderà in tribunale. E poi ancora sul rapporto proprio con Casini, qualcuno dice che Casini è il vero leader della vostra nuova coalizione. Mi fanno ridere, qualcuno nel PDL ha una scarsa considerazione di me e di Casini, pensano di farci litigare. E ancora chiede Claudio Tito: ma lei si sente un uomo di destra o di centro? I valori restano quelli di destra, risponde Fini. Servirebbe però un libro per spiegare cosa si intende nel 2011 per destra, centro, sinistra. Sono categorie del secolo scorso. Se poi per destra si intendesse il prevalere della finanza sull'economia reale, allora non sarei di destra. Altri ci si riconoscerebbero più facilmente. E infine, se fossi un operaio di Mirafiori, voterei senza dubbio l'accordo. Il problema è che la politica è assente. Ha delegato tutto alle parti sociali, anche sulla rappresentanza. Bersani ha fatto bene a dire che si discute e poi l'esito del referendum si rispetta. Nessun paese occidentale si trova in questa condizione. Insomma, così parlò Fini. È la prima volta un'intervista importante su Repubblica. La trovate a pagina 2-3. Vedete, dice no alle elezioni, sarebbero rischiosissime, sia un patto nazionale. Ovviamente la politica è tutta un po' sospesa su questa decisione del legittimo impedimento. È anche il tema del nostro sondaggio. Vi chiediamo, secondo voi, se il legittimo impedimento sia comunque un principio giusto, al di là di quello che deciderà domani la Corte Costituzionale. Trovate molto sul Sole 24 Ore. Donatella Stasio racconta che, secondo i rumors, i 15 giudici sarebbero divisi così: 5 convinti della legittimità costituzionale, mentre 7-8 l'incostituzionalità. E gli altri, insomma, per arrivare a 15 per una sorta di compromesso. Vedremo poi cosa decideranno. Io segnalo solo su questo un'interessante intervista a Valerio Nida sul Secolo XIX, a pagina 3, se non altro perché dà un po' di colore, oddio colore, un colore grigio per la verità. Valerio Nida è stato presidente della Corte Costituzionale e dà un colore grigio a quelle che sono le sedute della Corte Costituzionale e poi le Camere di Consiglio. Noi giudici chiusi nel bunker, così ci difendiamo. Doveva essere un'intervista un po' anche di colore per raccontare come avvengono queste sedute un po' misteriose, no? Per chi non sta dentro questo palazzo, queste sedute fiume di Camere di Consiglio dei 15 massimi giudici italiani. Beh, dice, che dire, è una situazione molto grigia, normale, c'è giusto il tempo per un caffè, un po' di acqua minerale. E col giornalista che dice, beh, ma dai, insomma, ci racconti qualche aneddoto, qualche giudice magari spiritoso. Guardi, intanto non suona mai un telefono, se qualcuno suona il telefono partono le occhiatacce. Nessuno che si permette mai di leggere un giornale o distrarsi. Nessuno che entra o esce, cioè non c'è un andirivieni. Quando si sta in camera di consiglio si sta in camera di consiglio. E poi le battute che ricordo, ma alcuni bigliettini spiritosi del presidente Casavola agli altri giudici scritti in latino. Oppure molti ricordano il presidente Saia, gli bastava un'alzata di sopracciglia e nessuno lo contraddiceva. Oppure Mauro Ferri, che una volta mi tolse la parola dicendo: ora basta, Onida, abbiamo capito quello che pensa. No, ma questi sono il massimo degli aneddoti che si raccolgono del clima, dei vizi, delle sedute fiume dei 15 giudici della Corte Costituzionale. Un po' un'esistenza professionalmente grigia, insomma, mi sembra di capire. E per quanto riguarda la politica, che altro dire? Ci c'è qualche indiscrezione, sempre appesi, in attesa di capire cosa deciderà la Corte Costituzionale, i centristi, la trattativa con i centristi. C'è ancora sul Corriere della Sera la vicenda dei parlamentari di responsabilità, che dovrebbe il gruppo di responsabili che è pronto al debutto, è a quota 20, quelli che dovrebbero puntellare la maggioranza. C'è ancora Grassano, l'ex leghista Grassano ancora dice ma non so cosa farò, è dal 14 dicembre che si aggira per il Parlamento a dire ma non ho ancora deciso, certo se mi chiama Berlusconi in persona chissà. Sarebbero 19 in realtà i voti certi, 12 di Noi Sud, del PID, 3 ex Fignani, Pionati, Scilipoti, il celebre Scilipoti, Cesario, Calearo, Nucara invece si è già sfilato, così come l'ex Fignano Giampiero Catone si è sfilato. Questi sarebbero i 19 che dovrebbero puntellare la maggioranza. La notizia politica quasi più interessante rischia di diventare quella che Salvatore Dama scrive a pagina 4 di Libero, e vale a dire che prendendo spunto dalla grande esclusiva di chi che mette in prima pagina la foto di Berlusconi con tutta la sua famiglia, quando dico tutta vuol dire che racconta Libero ci sono veramente tutti, fratelli, familiari, cugini, il cugino prete, le zie suore, i nipoti, i fidanzati, i mariti, le compagne eccetera, chi manca ovviamente è la ex moglie di Silvio Berlusconi, tanto che Libero titola così: i fedelissimi consigliano, cavaliere, fidanzati. Il premier affida a chi le foto di Natale con la famiglia, ci sono anche il cugino prete, le zie suore per l'appunto, la storia con Veronica è chiusa e i suoi gli suggeriscono se si va alle urne hai bisogno di avere una donna a fianco. Qualcuno, Salvatore Dama è uno dei massimi e attenti analisti di tutto quello che succede attorno al presidente del Consiglio Berlusconi, e dice che un po' di settimane fa alcuni amici avrebbero anche intavolato l'argomento sotto forma di consiglio a Berlusconi: Silvio, guarda che se si vota ti devi trovare una compagna. E lui pare che abbia un po' fatto una smorfia, non ci pensa proprio, gli piace fare in questa fase della sua vita il single. Eppure, dice Libero, potrebbe essere la mossa a sorpresa dell'eventuale elezione del 2011. 3 anni fa fu l'ICI sulla prima casa, vi ricordate, toglieremo l'ICI. Stavolta, chissà, Libero dice così, potrebbe essere la mossa elettorale il Berlusconi fidanzato. Scontro Camusso-Marchionne, questo è il titolo dell'articolo di Nicoletta Picchia, pagina 5 del Sole 24 Ore. Ovviamente sono le relazioni industriali, il futuro del lingotto, il referendum che da venerdì, mi pare di capire, c'è stato anche un giallo sul voto, sarà venerdì il referendum tra i lavoratori a Mirafiori. Il clima certamente si è un po' intesito, da lui un insulto al giorno, dice la leader CGIL dell'amministratore delegato della Fiat, la replica di Marchionne: non confondere il cambiamento con le offese. Sta di fatto che io vi segnalo due cose, anzi tre, la prima che ne parla Oscar Giannino oggi alle 9 e dunque tutti gli approfondimenti lì, la seconda è questa che certamente sta facendo, sta raccontando un pezzo di questo momento di passaggio storico, questa foto che circola, quella di Antonio Agostino, anzi come si presenta lui, Agostino Antonio, prima il cognome poi il nome, come i vecchi operai di un tempo, in lacrime, 73 anni, davanti alla porta 2 di Mirafiori a Torino. Ieri c'è stato questo anche battibecco, toni che si sono alzati tra alcuni operai che si scambiavano idee in maniera molto veemente su quello che bisognerà votare al referendum, e Antonio Agostino, 30 anni in fabbrica, che urla: fermatevi, vi prego, siete impazziti, non riconosce più gli insulti, gli sputi in faccia tra la gente che lavora insieme da sempre, e poi appunto le lacrime, piange e forse non può fare altro, racconta Marco Imarisio sul Corriere della Sera. Forse non può fare altro mentre i delegati delle opposte fazioni vanno avanti a sbranarsi. Non è giusto quello che sta succedendo. D'accordo, ma tu cosa voteresti, gli chiedono, se fossi dentro con noi? Io ci tengo ai miei diritti, ma non posso neppure dar torto a chi sceglie il sì, perché se ti dicono di scegliere tra questa minestra e il salto dalla finestra, è difficile davvero. Eccolo qui l'immagine, certo emblematica anche, delle lacrime dell'ex operaio Antonio Agostino di fronte alle discussioni molto animate tra gli operai di oggi. La terza cosa che vi segnalo è dal Foglio, Foglio che da giorni continua a porre questo tema al centro del dibattito, E beh, il Foglio in prima pagina effettivamente si pone questa domanda. Sul silenzio, su questo tema, silenzio funambolico, definito dal Foglio sotto il titolo Mistero Operaio, di Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti su questa vicenda. Perché il presidente operaio e funzionalista e il ministro genio dell'economia non hanno dedicato neanche una frase subordinata, un periodo ipotetico al fenomeno che secondo i più accreditati osservatori potrebbe modificare radicalmente in direzione liberale le relazioni industriali, il volto dei sindacati e anche la composizione storica e il peso della Confindustria? Questo si chiede il Foglio, cioè perché c'è questo silenzio di Berlusconi e Tremonti? Così come Berlusconi e Tremonti tacciono, scrive il Foglio, anche coloro i quali li rimproverano in privato del troppo silenzio non si espongono. Secondo alcuni bene informati, il Cavaliere fa bene a non parlare perché la Fiat non chiede più soldi allo Stato ma si è sganciata dal meccanismo degli incentivi. I più maliziosi invece sostengono che il Cavaliere Tremonti non vogliano morire per Marchionne, non vogliano cioè rischiare di rimanere vittime degli effetti di un possibile conflitto sociale. Preferiscono semmai vivere per interposto Marchionne, godersi in silenzio gli effetti della nuova politica Fiat. Sta di fatto che il silenzio di Berlusconi e Tremonti, effettivamente su questo non hanno detto neanche un mezzo accenno di frase, e ci si chiede perché sul Foglio. E sul Sole 24 Ore segnalo l'apertura che è tutta dedicata al federalismo fiscale, agli affitti, in questo caso in primo piano gli affitti con cedolare doppia, quello che allo studio del ministro Calderoli, Eugenio Bruni e Saverio Fossati lo spiegano a pagina 3, trovate tutto sulla possibile modifica da cedolare secca. Al 20% rimarrebbe quella per i contratti a canone concordato, mentre quelli a canone libero passerebbe al 23%. Questo però lo trovate tutto a pagina 3. Per quel che riguarda la cronaca, ci sarebbe molto da segnalare. Io voglio segnalare la storia che viene dalla Tunisia, con una Tunisia ancora dove ci sono molti scontri, si dice la rivolta del pane, ma è anche una rivolta per i diritti. E tra l'altro Repubblica racconta con Renato Caprile a pagina 17 la storia da cui è nato un po' tutto, quella del fruttivendolo con la laurea, Mohammed, diventato lo Jan Palach arabo. Jan Palach è colui che nel 69 schiacciò la primavera di Praga, no? Colui che si suicidò dandosi fuoco in segno di protesta. Ebbene, la vicenda è simile, tutto è nato da questo Mohammed fruttivendolo, perché racconta Renato Caprile nella Tunisia dove non si conosce il merito e se sei povero rimani povero, se non hai agganci resti al palo. Ebbene, questo Mohammed, laureato ma proveniente da una classe sociale bassa, le ha tentate tutte, poi è stato obbligato a vendere al mercato un po' di frutta, verdura e legumi. Quando il 17 dicembre del 2010 la polizia gli ha sequestrato tutto perché era un abusivo, una miseria di mercanzia, circa 20 euro, ma era tutto il suo capitale. Alla fine, per protestare, visto che le ha provate tutte ma nessuno l'ha ricevuto, il palazzo di prefettura, i funzionari, si è dato fuoco, si è cosparso di benzina, si è dato fuoco diventando una torcia umana. La sua agonia è durata 17 giorni, durante i quali, tra l'altro racconta Renato Caprile, il presidente Ben Ali gli ha fatto visita in ospedale, ha finto di fare giustizia, ha annunciato la rimozione del prefetto, il trasferimento dei due poliziotti, ma in realtà questo non è servito perché è diventato già in qualche modo questo Mohammed fruttivendolo con laurea l'emblema della protesta contro il potere. Che dire, come altra segnalazione vi segnalo questa in conclusione. A Belluno il primo sì al referendum separatista. Lo troviamo a pagina 15 del Corriere della Sera. Sapete che ci sono vari comuni che chiedono di passare da una regione all'altra, non è il primo caso, ma in questo caso c'è un'intera provincia, la provincia di Belluno, che ieri ha deliberato col consiglio provinciale. La provincia di Belluno ha deciso che vuole andare via dal Veneto e vuole andare tutta in toto in Trentino Alto Adige. Questo per avere i maggiori favori delle regioni autonome, maggiori risorse finanziarie, maggiore autonomia. Il voto della provincia per lasciare il Veneto. E tra l'altro si incrocia con una storia che il Sole 24 Ore racconta in prima pagina, con Vincenzo Del Giudice, I tormenti delle autonomie, la storia di Salento Libero, la storia dell'ideologo Paolo Pagliaro, Movimento Salento Regione, vuole creare una regione. Salento autonomo. E la trovate in prima pagina, poi continua a pagina 2. La voglia di secessione contagia anche il sud. Insomma, si dicevano che queste province bisognava abolirle e invece, per quel che riguarda il Veneto, vogliono passare in Trentino Alto Adige, Belluno. E poi invece al sud che dobbiamo fare? Si dice che ci sono troppi livelli e invece si vuole creare una nuova regione, il Salento autonomo. Evviva! Voi votate sul legittimo impedimento il nostro sondaggio, secondo voi è un principio giusto, questo vi chiediamo, ora il GR.